Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, ben ritrovati, bentornati qui sulle frequenze di Radio Contrabanda per una nuova puntata di Zibaldone. Di che cosa parleremo quest'oggi? Vediamo se lo capite ascoltando questa canzone. Secondo me sì, perché forse anche capirete anche chi la canta. Perché capita sempre a me di non fare canestro in questa vita, a volte casco male. Perché poi capita anche a te di non fare canestro, che sembra anche un dispetto. E perché parlo poi con me aspettando alla finestra, accadrà qualcosa di speciale. E canestro, e dalla sera esco, è una vita divertente, è una roba quasi affascinante, ti conosco, e nel mio cuore c'è già un posto, però sai come in fretta si fa a non fare più canestro. E perché parlo poi con me aspettando alla finestra, accadrà qualcosa di speciale. E perché parlo poi con me aspettando alla finestra, accadrà qualcosa di speciale. Vittorio Cane con un brano di 20 anni fa, speciale, tratto dal suo primo disco, che era un disco omonimo. Vittorio Cane, Banzo innanzitutto, bentornato, ergonomico più che mai, buon pomeriggio, spero tu stia bene e che tu sia contento di riascoltare la voce di Vittorio Cane su Radio Contrabanda. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. La risposta è ovviamente sì, certo che sì, fortissimamente sì, perché... Adesso non voglio fare dei preferiti, delle preferenze, ecco, però nella lunga lista di amici di Zibaldone, che non è retorica, cioè sono persone con le quali nel corso degli anni si è veramente instaurata un'amicizia, diciamo che Vittorio forse è uno dei più amici. Sì. Indubbiamente. Ma ascolta, ma tu ti ricordi quante volte è venuto a Zibaldone? Almeno io direi 2 o 3 in studio e un paio interviste telefoniche, una cosa così, può essere? Con questa forse sono 3, però appunto stavo per dire, Steven, che Vittorio apparve nella mia prima puntata di Zibaldone nel marzo del 2012, se ricordo bene, sì. Quindi è inevitabile che ci sia un legame affettivo anche per questo motivo. Forse è una puntata nella quale diciamo ci faremo un filino di più, non troppo, i fatti nostri rispetto al nostro standard, perché qui si parla anche un po' del cuore, Steven. Sì. E questo è vero, quindi insomma lo diciamo subito, non è che abbiamo mandato Vittorio Cane così per caso, per nostalgia, o forse anche sì, ma in realtà perché proprio la puntata di oggi è dedicata a Vittorio Cane. Perché? Perché insomma, vent'anni fa, poco più di vent'anni fa e due mesi indicativamente, usciva questo suo primo disco, da cui abbiamo ascoltato Speciale. E a vent'anni di distanza non solo noi abbiamo voglia di risentire Vittorio Cane e fare un po' il punto anche su insomma questa sua traiettoria, la sua esperienza, insomma come riguarda dietro quegli anni, ma perché è uscito un disco che si intitola Vittorio Cane 20 anni dopo, con un sacco di amici che cantano le canzoni di quell'album di Vittorio Cane. E quindi Banzo, insomma, forse è un po' tautologico, ma la puntata di quest'oggi di Zibaldone si intitola proprio 20 anni di Vittorio Cane. Eh sì, 20 anni. E allora, insomma, bando alle ciance, guarda, visto che Vittorio Cane è già in collegamento telefonico con noi, ci sta aspettando, io direi, Banzo, di andare subito a bomba, visto che abbiamo già spiegato ai nostri ascoltatori di che cosa parleremo quest'oggi qui su Radio Contrabanda, ad ascoltarci una di queste versioni di Vittorio Cane, ed è quella di Mapuche, che canta Mestiere. Ecco, ci ascoltiamo questo brano, poi ritorniamo e cominciamo proprio questa conversazione tra il nostalgico, ma in un senso positivo, e l'attuale, con un amico e un grande artista, Vittorio Cane. Pensa al mare, devi pulire. questo è Mapuche in questa mestiere, primo brano di questo album omaggio a Vittorio Cane. Vittorio Cane 20 anni dopo, e noi quest'oggi, dopo non 20 anni, ne sono passati un po' di anni, ma meno di 20, abbiamo con noi a Zibaldone Vittorio Cane. Vittorio, bentornato a Zibaldone, non sai la felicità che anche il banzo ergonomico come sempre ha, ma quest'oggi ancora di più. Bentornato a Zibaldone, come stai? Ma che bello, sto bene, sono contento di risentirvi, peccato non essere lì come al solito, ma è bello così. Prendo la parola anch'io per salutare, sì. Vittorio, ciao Vittorio. Ciao banzo. Ascolta, Cane, sei contento di questo omaggio 20 anni dopo? Insomma, il tuo primo disco è rifatto da tanti musicisti, molti di loro amici, tra l'altro poi ne parliamo, anche un concerto proprio la settimana scorsa per celebrare questo momento. Sei felice di questa cosa? Perché tu, insomma, diciamolo subito ai nostri ascoltatori, tu ultimamente avevi abbandonato il nome di Vittorio Cane. Vittorio Cane, come insomma nome artistico, è scomparso, sostituito dall'atleta. Esatto, sì. Ma guarda, sono felicissimo perché ho chiesto a un po' di amici nuovi, vecchi, che nel frattempo ho conosciuto, se erano interessati a fare una roba del genere. Tutto è nato che stavo parlando con mio amico Paolo Spacca Monti, tutto attaccato, e mi fa: perché non facciamo un concerto? Sono passati 20 anni da quel disco lì, facciamo un concerto, ma facciamo un disco. E poi lui si è tirato indietro perché non se la sentiva, poi non canta. Fatto sta che poi ho cominciato a chiedere e mi sono cominciati ad arrivare i brani un po', cioè sono dovuti stare dietro, sapete come sono questi artisti, no? Sì. E man mano che arrivavano, insomma, bellissimo, cioè, anche perché io non ho messo né parola né mano né niente. Tu hai fatto il produttore praticamente. Esatto. Il discografico produttore, ecco, mettiamola così. Che bello, non fare niente e poi sentire dei pezzi che poi, vabbè, sono tuoi, sono miei, sono vicino, sempre mi piacciono, ma la sorpresa appunto di sentire come sono stati interpretati, senza dire niente, no guarda mi piace più questo, quello, fate come volete, e mi sono piaciuti tutti. Mm-hmm. No, questa sera ce ne ascolteremo qualcuno, poi insomma ovviamente invitiamo anche gli ascoltatori a andarsene a cercare questo disco. Banzo, io volevo prima di tutto, perché so, poi ti cedo la parola, che questo artista ti piace molto, è Mapuche, che insomma è la prima canzone che ci siamo sentiti di queste versioni di Vittorio Cane. Vittorio, dici un po' insomma il contatto anche con Mapuche, perché Mapuche è molti artisti sono della scena torinese, poi ci ritorneremo sopra. Mapuche, uh-huh, forse è diventato adesso, no? Perché insomma lui non è torinese. Sì, lui è catanese, ha presentato sempre Paolo, vabbè, ci conoscevamo così su Facebook, no? Però in fin dei conti non lo conoscevo. Poi un giorno sempre Paolo che ritorna e mi fa: oh, ma l'hai ascoltato Mapuche, il nuovo Battiato? Sono andato ad ascoltarlo e no, ho detto no, non è il nuovo Battiato, però mi piace, mi piace un sacco. E boh, poi l'ho conosciuto, un personaggio anomalo come noi altri, tra l'altro. Mm-hmm. Niente, siamo entrati subito in sintonia, abbiamo fatto un po' di chiacchiere e boh, io ho chiesto sta roba, lui era contento e via. Avrebbe dovuto fare speciale, che poi era una di quelle che ancora non era stata presa come brano, no? Sì. E poi se l'è scambiato con Matteo, perché Matteo Castellano mestiere non riusciva proprio a farlo. E meno male, perché poi era adatta, cioè è stato un ottimo cambio, come fare i cambi in corso nelle partite, massimo 5. Poi peraltro Mapuche, cioè, per certe cose mi sembra quasi il negativo di Vittorio Cane, perché tu hai una poetica diciamo abbastanza ottimista tutto sommato, mentre Mapuche è nerissimo e ultra pessimista, però ascoltando la canzone pensavo che è una voce assolutamente adatta per interpretare un tuo brano, cioè riesce diciamo a mantenersi su quelle frequenze, su quella lunghezza d'onda. Esatto, l'unico più pazzo di me è lui che c'era. Difatti Orazio, non so se lo conoscete anche lui, siciliano, abita a Firenze, mi fa: chiedere a Mappuccio, perché è quello che è perfetto per te. E infatti poi è stato un'ottima scelta. Comunque, giusto per anche informare un po' meglio i nostri ascoltatori, oltre a Mappuccio, Orazio anche che è stato nominato, Matteo Castellano, insomma tra gli artisti che partecipano a questo progetto e alcuni poi ce li ascolteremo, ci sono Mao, c'è Dejan, Sasso, Crema, Bonetti, Noemi e gli imbarazzanti silenzi, Dino Cova, insomma un bel gruppo di artisti. A questo punto, visto che ho anche nominato Dejan, che 11 anni fa ormai, era la fine del 2014, era stato proprio qui a Barcellona con te in concerto ed anche a Radio Contrabbando, io direi andiamoci a ascoltare la canzone interpretata da Dejan, si intitola Mille, e poi rientriamo qui di nuovo insieme a te, Vittorio, per continuare a parlare di questi 20 anni di Vittorio Cane. A dopo. Senza il caldo. Hi, I'm Dejan. Anch'io ascolto Radio Contrabanda. Ciao Steven, ciao Benzo. Purtroppo stasera non posso essere dei vostri because I'm at a restaurant. I am with a very, very, very fine and restaurant Stellato, Italia, Italian food, Stelle Michelin. Ciao per i 20 years of Vittorio Cane. Vabbè, avete sentito che insomma Deia non è riuscito ad essere con noi, però almeno ci ha mandato un messaggio audio. Noi siamo molto contenti. Banzo, dai, un commento telegrafico dopo questo messaggio di Deia. Non mi ricordavo che avesse questo accento, ma insomma la gente cambia, ecco, diciamo, un po' succede. Sono passati 20 anni. Comunque, Vittorio, insomma, stiamo sentendo delle versioni davvero belle, particolari, poi soprattutto fatte proprie da tutti gli artisti, anche da Dejan. Sei contento di questa versione di Mille? Puoi anche dire di no, visto che Dejan non è qui. Ma sì, dovrei dire di sì e dico di sì. Ah. Mi è piaciuta anche questa qui, ragazzi. Nonostante lei sia alto, più alto di me, è bella, dai, è bella, bravo. Ascolta, diciamo, Vittorio, che Dejan sicuramente non è stato difficile da contattare, magari a differenza di altri artisti che hai dovuto seguire con più attenzione, stargli dietro. Dejan è stato un colpo di telefono e via, no? Ma, sì, no, poi anche a lui, tutti bisogna stare dietro a questi qua, ma vabbè, Dejan è amicone proprio, perciò sì. È stato facile, è stato anche il primo a scegliere il pezzo. No, voglio fare Mille, falla tu, Dejan. Esatto, facile, via così. Ascolta, ecco. Vittorio, una roba importante, ma tu adesso quando guardi indietro, no, e pensi 20 anni fa, quando insomma è nato l'artista, sì, Vittorio Cane, insomma le cose che hai fatto anche dopo, e adesso insomma li vedi un po' celebrati con, non so dire se con nostalgia, però insomma 20 anni dopo, e ti riascolti anche nella voce degli altri, al di là di essere contento, che effetto ti fa ripensare a quella tappa della tua vita come artista, visto che dopo ne hai aperto un'altra che è un po' diversa, quella dell'atleta? Ma ci penso sempre con uno stupore. Alla fine correva era il 2005 e ero sempre lì che facevo musica, e a un certo punto così ho deciso per questo nome qua che mi sono portato poi dietro, è stato bellissimo, anche perché lì non mi aspettavo niente. Ho fatto una raccolta di canzoni, l'ho stampata, l'ho messo su un CD e ho cominciato a mandarlo in giro con questa mia etichetta finta che avevo fatto per continuata, Innabilis. Esatto, non navigabile, difatti non ha mai portato bene, diciamo. Però che avevo aperto lì, tipo come facevano i surrealisti a caso, il vocabolario, ed è venuta fuori questa parola qua. No, la vedo che è una cosa bellissima. Poi anche un pensiero che avevo l'altro giorno mentre stavo suonando sul palco, che abbiamo suonato a Torino, bla bla. Dicevo, ma cazzo, ma adesso sti pezzi, poi abbiamo una bella band, abbiamo suonato bene, cantato bene, tutto il pubblico era tutti felici, contenti. Dicevo, ma porca di quella puttana, cioè alla fine tutti che cantavano, no? Io cantavo bene, eccetera, ho detto, boh, alla fine non, forse non è andata così bene. In che senso? Nel senso che se quei 100 che c'erano lì la cantavano tutte le canzoni, e allora mo faccio un nostalgico quello, e allora l'avessero ascoltata in più persone, potevano cantare mille. Vabbè. No, mille. Vabbè, lo so, ma per mille è un'autocitazione. No, non è vero. Vabbè, adesso, è un attimo un pensiero che mi è venuto lì. Tra l'altro, è stato un concerto stupendo. Racconta un po' chi c'era, chi ha cantato. Allora. C'era il famoso Dejan, sempre al mio fianco, per fortuna, che suonava la tastiera. Poi c'era Marco, che è Noemi Imbarazzanti Silenzio, un mio nuovo amico qua che abita a Ivrea, era il mio stalker, a un certo punto siamo diventati amici, poi lui abita vicino Ivrea, io adesso pure, ma è di Lecce, insomma, diciamo, il destino ci ha uniti. C'era lui al basso, poi c'era Schifo Luca alla batteria, che è un nostro compagno di mille avventure dei vecchi concerti, e come ospiti c'erano appunto Mapuche, che è stato il primo a salire direttamente dall'RSA, poi Matteo Castellano, anche lui l'ha fatto uscire questa sera, poi c'era Sasso, che anche lui è di Torino, e boom! Beh, insomma, eravate un bel gruppo. Io ho visto dei video, c'era un sacco di gente, no? Sì, dove c'era letteralmente la qualunque sul palco. Sì, beh, è stato l'ultimo pezzo, abbiamo fatto salire tutti sul palco, tutti sul palco, tutti sul palco. Abbiamo rischiato la tragedia perché ho fatto finta di cadere. Poi dopo mi hanno preso, che non c'è quel pezzo lì, mi hanno preso, mi portavano con la sopra la gente. Tipo rockstar? Sì, tipo... Sì, tra rockstar, Gesù Cristo, scemo di guerra, un incrocio. Ascolta, andiamo a bellissimo. Infatti, andiamo a ascoltarci un altro brano, perché tu hai coinvolto anche un progetto che a noi piace molto qui a Zibaldone, che sono i Crema, ossia gli ex Camillas. Loro hanno interpretato Un punto, eccola qua. E via. Se non parli, dice che è un problema. La mattina il frigorifero è vuoto. Dalla finestra entra una luce. La partita può cominciare. Destinazione treno merci. Ci siamo tutti cani e porci, con tutto il rispetto per il porco che non ha colpe, e neanche il cane che è un mio amico, che è un mio amico, che è un mio amico, che è un mio amico. E mi fermo allora al punto blu, un momento ancora e torno giù. Ma il merito è solo mio, è solo tuo. Se mi aiuti e guardi sopra i palazzi come me, sapevo di dove il tempo non ha importanza, e la collina è lì in fondo dove finisce il podio. E tutti, tutti siamo vincitori. Inutili spettacoli che offuscano tutto quello che ha ancora un senso. Trovo quello che mi piace dalle ceneri. Un'altra volta ancora. Un'altra volta ancora. Un'altra volta ancora. Un'altra volta ancora. E mi fermo allora al punto blu, un momento ancora e torno giù. E mi fermo allora al punto blu, un momento ancora e torno giù. Un'altra volta ancora, un'altra volta ancora, un'altra volta ancora, un'altra volta ancora, un'altra volta ancora. che bella questa versione, ci piace, crema un punto, sempre tratta da questo Vittorio Cane 20 anni dopo. Banzo, visto che sono, insomma, che tu dei Camillas e anche di Crema sei un grande fan, so già che hai una domanda lì, insomma, sulla punta della lingua, è vero? Esatto, Steven, la sputiamo subito. In realtà è più una domanda logistica per Cane. Nel senso, abbiamo accennato al fatto che questo disco è un po' una celebrazione indiretta, se vogliamo, della scena torinese, però i Crema appunto sono molto estranei alla scena, tutti sanno che i Camillas erano un gruppo di Pesaro, quindi vorrei chiederti quali sono i contatti, le vie traverse che ti hanno unito ai Crema e come si è concretizzata la loro partecipazione all'album. Siamo nati più o meno nello stesso periodo con i Crema, poi c'era appunto Mirko che aveva sto negozietto che vendeva dischi, poi ci si sentiva così ogni tanto, ci siamo anche visti qualche volta, una volta di sicuro a Pesaro in un concerto, e poi stavo pensando a chi potesse partecipare e Ruben, comunque ogni tanto anche con lui ci sentiamo, e tra l'altro è una persona molto simpatica, che mette di buon umore, e niente, gli ho chiesto, mi ha detto subito sì, subito, e sono stato molto contento, perché poi hanno fatto anche loro, insieme a lui, insieme ai Crema, un pezzo che, anche questo come fai, cioè non me l'aspettavo, no? Parlata così, molto intima, bei pad, c'è anche uno strumentino lì che adesso non mi viene il nome, ma è bello comunque. Anche Von Marley, no, sì, ma è bellissima anche questa. Ma ti dico, poi, vabbè, voi è la prima volta che le ascoltate adesso, ma a me che mi sono arrivate, sai, mentre scaricavo i fagli, avevo anche un po' paura ad ascoltare, se non mi piacciono, come, cioè, che gli dico? Certo. No, è brutto, no? Cioè, uno ti fa una cosa, dice le ascolti, allora mi fa schifo, vaffanculo. No, l'unico che potevo dargli contro è con il mio amico lì, Marco, infatti io gli do sempre contro, ha suonato il basso e l'ho rovinato. Io ho detto, ma scusa, mi ha mandato il pezzo, è distorto così, qua, là. Alla fine era solo per rompergli un po' le palle, ma era bello, giusto, bello perché un plebiscito di risultati positivi non andava bene, quindi hai dovuto inventare un problema, diciamo. Ma sì, cioè a me piace, mi sono reso conto che sono diventato un bullo, e durante le prove di sto concerto ho massacrato tutti, ho rotto le palle a tutti, no, tu qua, tu là, tu là, no. Poi abbiamo fatto le prove, tipo siamo venuti qua, che abito in campagna, no? Sono stati tutti qua sabato e domenica, è stato molto divertente, e perciò li ho massacrati praticamente. Poi abbiamo fatto l'ultima prova, è andata benissimo, ho detto basta, non proviamo più, ma riproviamo, no, sono passati 10 giorni, abbiamo fatto concerto, e con quel bel ricordo lì è andato tutto bene. Ma ascolta, a domanda risposta, ci saranno altri concerti in futuro? Farete delle tournée? Ma figurati, che tournée. No, ho chiesto qua a Ivrea, che ormai è casa tua? Abito vicino a Ivrea. Sì, è la mia seconda casa. Ho chiesto qua, c'è un locale che si chiama Lo Zac, che siamo anche di casa, ogni tanto mettiamo musica, ci ho già suonato. E ho detto, ma perché non lo facciamo? La programmazione sarebbe bello, ma la programmazione qua, là. Comunque può essere che suoniamo qua. Poi, anche perché farlo da altre parti, che sono degli amici a Milano, però un po' complicato spostarsi, è logico. Sì, non tanto quello, ma tanto per il calore che poi ti dà la serata. Cioè. Ascolta. Poi soprattutto in un'altra location dovreste suonarlo senza gli ospiti, tipo a Milano è proibitivo che possano partecipare tutti gli ospiti che erano al BlaBla, no? Esatto. Praticamente Macuno. Come ospite si era anche Spaccamolti, ricordiamolo, anche il maestro D'Anusso che aveva partecipato alle registrazioni, anche Paolo aveva partecipato, tanti amici avevano partecipato al primo disco, come al solito. Poi. Ascolta, so che ti piace molto un'altra versione di, in questo caso, la canzone Ti do qualcosa, è di Sasso, ce l'andiamo a sentire subito, perché qui il tempo vola e poi sennò la puntata finisce. Quindi noi vogliamo andare a farla sentire anche questa canzone ai nostri ascoltatori. ci piace molto anche questa versione di Sasso. Ti do qualcosa dal disco che stiamo presentando quest'oggi qui su Zibaldone, Vittorio Cane, 20 anni dopo. Vittorio, ascolta una cosa, ormai il tempo è tiranno in radio e vola, quindi insomma tra poco dobbiamo già salutarci. Vola. Insomma, vabbè, lì saremo in Abruzzo, no? La canzone. Vabbè, allora no, andiamo sulle cose serie, e, per così dire. Insomma, qui abbiamo, e dopo ne sentiremo anche un altro, cioè Mao, una serie di artisti, da Dejan appunto a te, ovviamente, a Mao, eccetera, Matteo Castellano, che rappresentate, insomma, avete rappresentato un periodo della musica torinese, no? Di una scena legata molto anche al quartiere di San Salvario, che tra la fine del primo decennio degli anni 2000 e il decennio scorso, gli anni 10, insomma, avete fatto tante cose, tanti dischi, concerti, si è parlato molto. Ecco, cos'è rimasto di quella scena che insomma anche voi avete rappresentato a Torino? Ma è rimasto dei ritagli di giornale, secondo me. Che cinico che sei. Delle amicizie, no, almeno. No, dai, è rimasto un bel periodo, delle belle amicizie che ci sono ancora, poi per il resto, e dei dischi, perché sono rimasti pure dei dischi. Ma no, quello sì, ma adesso, cosa si muove a Torino? È finita un'epoca, c'è stato un ricambio, in realtà insomma ci sono delle cose sotto traccia che non vediamo, dici un po'. Ma quello che c'è di Torino adesso, bene non saprei, perché adesso, vabbè, sapete, abito da un po' Ivrea, fuori, vicino Ivrea, un po' di anni, vicino Ivrea. A Torino non lo so, beh, c'è Sasso che ha fatto appunto, è uscito da poco con un bel disco, e Sasso suonava appunto, vi dicevo, fuori onda con l'Aslo, che aveva un gruppo, secondo Anthony l'Aslo, perciò vabbè, c'è sicuramente l'Aslo, che anche lui ha fatto molto la gavetta, poi ha fatto il botto adesso. Ha fatto il botto grazie alla sua bravura, anche alla Francia, mi sa un po', perché in Francia è stimatissimo, e poi sono di buon gustai. E boh, con la sua musica anni 60, dolce e raffinata, e col suo talento ha fatto un bel successo. E per il resto non so cosa ci sia, veramente. Non sono. Perché dalla campagna è tutto sfocato. Ma sì, vedo a malapena, quando c'è bel tempo, vedo Superga da lontano, che sta sulla collina di Torino. Vedo il Mondiso da lontano, ma sono più vicino alla Valle d'Aosta, i caprioli, i cacciatori che cacciano i cinghiali, quelle robe lì. L'orto, taglio la legna, faccio queste robe qui. C'ho lo studio ancora, bello. Bene. Ma infatti, perché guarda, l'ultima domanda che ti volevo fare prima di salutarci, Vittorio, è sì. L'atleta, sono usciti un paio di dischi, che cosa c'è in ballo adesso? Stai lavorando a qualcosa? Stai facendo qualcosa? Raccontaci un po' brevemente. Ma sto facendo sempre meno musica, perché non è una cosa prioritaria come lo era prima. Mi piacciono molto gli strumenti, insomma, ve lo studio, metto lì ogni tanto, ascolto. Una volta al mese magari registro anche ogni 2 mesi. Ho un po' di canzoni che prima o poi voglio fare un altro disco, che non so se mi chiamerò con il mio nome vero, Claudio Cosimato, o mi chiamerò Banzo o Steven, ma la musica c'è sempre, un po' meno, perché appunto prima era proprio una cosa di ogni giorno. Adesso mi accontento in estate di tagliare l'erba, in inverno di accendere il camino, fare legna. Cioè in estate tagliare l'erba. Oh. È quello. Cioè, mi piace passare il tempo in mezzo alla natura e fare l'orto, queste robe qui. Ma fai bene, probabilmente hai ragione. No, ma sono, cioè, uno, se si può, si fanno le cose che si sentono. In questo momento di fare musica ne faccio proprio poca, anzi il concerto è stato bellissimo, perché però non è fare musica, quello è suonare assieme a degli amici, che è stupendo, è la cosa più bella che ci sia. E invece prima era proprio stare lì tutto il tempo a creare, a perdersi nei suoni, eccetera. Ora meno, però non mi piacerebbe rifare un qualcosa. Ho tanti pezzi come al solito, ma rimangono lì, non per più ora. Come prima, rimangono lì. Insomma, come sempre, quello è importante. L'importante è fare nella vita quello di cui si ha voglia in ogni momento, no? Esatto, sì. Se si riesce, perché non è sempre così facile. Ah, certo, quello no. E ascolta, ultimissima cosa, ma insomma, ti ricordi che era il 2012 quando tu sei venuto, penso, la prima volta a Barcellona? Insomma, insieme al Banzo, questo trio che adesso ci stiamo ritrovando qui in questa diretta radiofonica, abbiamo tradotto in spagnolo un tuo grande successo, che era del secondo disco di Vittorio Cane, secondo appunto, esatto. Domenica. Sì, sì, ecco, sì. Che bello, mi ricordo, eravamo andati a fare un'intervista in una radio pure importante, no? Radio 3, sì. E poi lì sotto c'è venuta quest'idea, con te l'abbiamo tradotto, più che altro te, poi sei giunto il Banzolone. Domingo, era peccato che ancora lo spagnolo lo sapesse un po' peggio di ora, c'è un accento di quelli che... però vabbè, era bello, è stata una bella cosa poi. Io ricordo che fu molto difficile tradurre quella rotola nel testo originale, perché non sapevi indicarci esattamente che contesto dovesse riferirsi. E com'è che era stato tradotto alla fine? Ti ricordi? Non lo so, ma sentiremo la canzone prima della fine. Ivà, vabbè, ma sentiremo la canzone prima della fine della puntata. Lo sentiremo dopo. Ah, sì, Ivà. Ok, va bene. Lo sentiremo dopo. Noi adesso ci salutiamo, perché sennò non abbiamo tempo di far sentire quella canzone, e anche prima di far sentire Dipendente, che forse è stato insomma il singolo, forse direi, più importante, no? Di più successo di questo tuo primo disco. Sicuramente, sì, sì. E l'ha fatto Mao. Insieme l'ha fatto zio Mao, che ho contattato anche lui, perché poi chiudo subito. Perché alla fine è stato, mi aveva aiutato all'inizio, appunto con, che poi abbiamo fatto Ci proverò assieme, con quel pezzo lì anche, che era andata molto bene, era passato un po' in radio, un po' in TV. Ce lo sentiamo, ce lo andiamo a sentire, dai. Va bene. Perché sennò qua finisce il tempo. Ascolta, Vittorio, grazie davvero di essere stato con noi, complimenti per questo progetto, buoni 20 anni, e speriamo di vederti presto. E non sentirli, va bene. Ciao, cane, mitico trovarvi. Ciao, Enrico. Ciao, Vittorio. Ciao, Steven. Ciao, un abbraccio. Ciao, belli. Arrivato in ritardo, come sempre, prima l'estate, segue la notte. Se proprio devo, sai che son bugiardo. Pensavo di essere fuori da dispiaceri e malumori, di amore e non amore, tu che ne dici? Tu che ne dici? Finire il caffè per iniziare la stessa alchimia, poter sognare. Ora cosa si fa? Che tranquillità. Posso chiamare, ma rinunciare. Pensavo di essere fuori da dispiaceri e malumori, di amore e non amore, tu che ne dici? Pensavo di esserne fuori da dispiaceri e malumori, di amore. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah invece pensavo di esserne fuori, pensavo di esserne fuori, pensavo di esserne fuori. Pensavo di esserne fuori, da dispiaceri e malumori, di amore e non amore, e invece a Roma, al via Atreju, da qui passeranno i bambini allontanati dalla famiglia nel bosco prima di tornare dai genitori. All'ingresso della festa c'è il presepe di petardi legali che promette di regalare ancora più suspense ed emozioni. Sì, della Camera al disegno di legge Valditara che introduce il consenso informato dei genitori per i pestaggi, purché sia anche un po' creativo. Occupazione record a ottobre, alla più alta di sempre, dei robot umanoidi nelle fabbriche e negli ospedali. Anche Albano offre loro una casa. Una vita da super ricco e battute rigorosamente scorrette, così Trump nel documento sulla sicurezza nazionale. Putin, che questa mattina ha dato l'assalto a un furgone portavalori di Forlì, loda la strategia americana e fa la predica agli altri. Nuovo attacco di Elon Musk, l'Unione Europea come il quarto dei Putin, il Papa è possibile. Giorgia Meloni contro l'Università di Bologna, atto grave negare un corso su formaggi ipersonici e droni per allievi ufficiali dell'Accademia di Modena, mette in discussione il ruolo stesso delle forze armate, che nemmeno conoscono. Anche Albano offre loro una laurea. Siamo disposti a pagare un prezzo sempre più alto per aumentare le chance di affermazione sociale. È il pilota britannico della McLaren, Lando Norris, il nuovo Gianfranco Fini. Lui spiega: non ho valutato le conseguenze e chiedo scusa a tutti. Vabbè, sono rimasto stupito sul fatto di Lando Norris che è il nuovo Gianfranco Fini. Detto ciò, Banzo, sono tornate anche le ultimissime del nostro Fausto De Salvia alla fine, proprio agli sgoccioli di questa puntata di Zibaldone. Fausto, lo salutiamo e lo ringraziamo. Un commento telegrafico tuo su questa puntata delle ultimissime. Ma forse c'è un po' di confusione da parte di tutti, da parte di Lando Norris, ma anche da parte di Elon Musk, perché non ho capito esattamente cosa volesse dire affermando che l'Unione Europea sia il quarto dei PU. Innanzitutto dobbiamo metterci d'accordo su qual è il quarto membro dei PU, forse in questo momento è Riccardo Fogli, non lo so, però è una frase criptica, e per Musk, che è uno che è sempre molto chiaro quando parla e purtroppo dice quello che dice, diciamo che forse una frase che non si capisce è già un miglioramento, Steven. Forse sì, chi lo sa. Comunque insomma, il mondo è un bel casino e le ultimissime ce lo mostrano forse ancora meglio. Insomma... No, sbagli in un dettaglio, Steven. È un casino ma non è bello. No, assolutamente, sono d'accordo con te. Comunque insomma, è finita anche questa puntata di Zibaldone. Noi ce ne rimane ancora una prima delle vacanze natalizie. Insomma, già lo sapete di cosa tratteremo venerdì prossimo. Speciale che ormai ci accompagna da quasi un decennio, che sono le canzoni di Natale. Sì, canzoni di Natale ce ne sono tantissime, ne abbiamo trovate altre per la prossima puntata, quindi risintonizzatevi. Le cerchiamo tutto l'anno, infatti. Sì, tutto l'anno, insieme alle canzoni dell'estate. Fai un po' te e anche a quelle del Cantamostri. Comunque, detto ciò, è stata una bellissima puntata. Noi, Banzo, siamo, insomma, lo diciamo ai nostri ascoltatori, siamo davvero contenti di aver avuto Vittorio Cane con noi, di questo rincontro a distanza e di riascoltarci anche le canzoni di Vittorio in un'altra veste. Ce ne sono altre che ovviamente noi non vi abbiamo dato in onda, vi invitiamo ad ascoltare, perché ce ne sono di molto belle, come anche quella di Matteo Castellano, che salutiamo, anche lui è stato nostro ospite in questi anni qui a Zibaldone. Però ecco, visto che abbiamo parlato di questo brano, come ultimo trago ci sta proprio Cade a pennello, no? Sì, esatto, come dicevo all'inizio, forse è una puntata un filino più autoreferenziale del solito, ma non potevamo non chiudere con questo brano che per me, diciamo, un po' sancito l'inizio di questa amicizia a distanza con Vittorio, cioè la traduzione in spagnolo di domenica che diventa domingo, e non c'era, come ho già detto, non c'era modo migliore per chiudere la puntata di oggi. No, assolutamente. Poi insomma dai, qui abbiamo fatto una collaborazione io e te sul testo, la traduzione in spagnolo di Domenica di Vittorio Cane, forse il suo più grande successo, ecco, è uscita come domingo e ve la facciamo risentire, l'avevamo mandata all'epoca ancora in onda su Zibaldone. Noi ci ritroviamo venerdì prossimo per l'ultima puntata di questo 2025, le canzoni di Natale, e come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, alle 17.56 diceva tutti i venerdì: io normalmente preferisco i gatti, ma oggi inevitabilmente voto cane. Ecco, anche io. Domingo Vittorio Cane, bye bye, buon venerdì sera, ciao Banzo. Todavía domingo, hace tres días que es domingo, es casi perfecto y va, así ahora no estoy acá, y va a buscar un centro, y no perder el viento. Despierto y todavía es domingo. Siete días de domingo. A la derecha un tío me adelanta, me sobresalta y me espanta, y va a buscar un centro y no perder el viento, y va a tener el tiempo y continuar lento. Es solo domingo, es siempre domingo, es todavía domingo. Oh, oh, oh. Hoy es de nuevo domingo, ya hace un año que es domingo, domingo, domingo. Domingo. Na na na na na na.